Pane, burro, rock and roll. Sono le 8, inizio ufficiale della seconda ora. Burro e rock and roll. Buon giovedì 17. La tua colazione rock. Ovviamente gennaio 2008, l'anno della svolta. Ogni giorno alla mattina ascolta rock. Buona giornata anche a voi che affrontate questo giovedì solo da adesso. Vi siete persi una gran prima ora di Pane, Burro e Rock and Roll, ma ve ne aspetta un'altra, 60 minuti belli ricchi e belli intensi. Grande la musica che vi proporremo, ma soprattutto dobbiamo, allora, oggi che è giovedì, dobbiamo star dietro a Carla, la nostra sciura Carla qui di Milano, che ha i numeri quelli giusti da dare. Stiamo continuando ad accumulare nomi per la band del nostro Matte, tredicenne di Firenze, e soprattutto stiamo continuando il sondaggio con voi impiegati, voi colletti bianchi all'ascolto: in cosa siete rock? La domanda di questa settimana è: che immagine rock, se ce l'avete, sul desktop del vostro computer? Tutto questo e oltre nella seconda parte della puntata 163 di Pane, Burro e Rock and Roll, che anche quest'oggi inizia con il brano segnalato dal nostro collega Mox Cristadoro, il brano Easy Rider. Quest'oggi 1980, Blue Oyster Cult. Riprendiamo con Black Blade. È un romanticone, Mox, perché questa è stata sigla di Easy Rider quando anch'io partecipavo. Che romanticone, Mox. Black Blade, senti che roba. I have this feeling that my luck is much too good. This sword here at my side don't act the way it should. Keeps calling me its master, but I feel like its slave. Hauling me faster and faster to an early, early grave. It's my duty to fight against the law. That wizardry is my trade, and I was born to wait through door. I just want to be a lover, not a red-eyed screaming ghoul. I wish it picked another to be its killing tool. We'll from the beginning to the end of time, and I'm the cosmic champion and I hold a mystic sign in the Eccoci qua. Eccoci qui, alla radio, col microfono acceso, sì. On air, bisognerebbe farsi una bella, farsi venire una bella idea per intrattenere il pubblico di Rock FM. No. Roba, no, ma roba semplice, una battutina. Se no. che cosa c'ha? Cosa c'ha? Cos'è sta roba qui, il dizionario? Ecco, lì, eccolo qua, il dizionario, il nuovo dizionario rock. Sì. Ce l'ha per ce il l'ha, rocker l'ha. Italiano. La cultura Rock FM, sì. Le parole che alle elementari non vi hanno insegnato, vi hanno detto questo è un sinonimo, questo è un aggettivo, e non vi hanno detto questa è una parola rock, questa sì. È una parola ribelle. Molto giusto. E noi recuperiamo con la nostra trasmissione. Grazie. È un piacere sapere che ha delle buone idee, maestro. Ma Frick. Guardi, contraccambi i complimenti perché l'introduzione è stata fantastica. Le parole ribelli, ecco il vocabolo di oggi di cacchione. Cacchione. E vabbè, cacchione, che ci vuoi fare? Cacchione, sì, sì. Cacchione, cacchione. Avevamo visto in lo passato. Lo sviceri, la prego. Si ricorda lo scazzone? Sì, sì, credo di non essermelo dimenticato. Che era un pesce, sì, lo scazzone. Lo scazzone, oggi abbiamo il cacchione, che non è quello che state pensando voi, ecco. Rocchettari e rocchettare in ascolto. Frivoli, malevoli, maliziosetti. Esatto. Il cacchione è un uovo di mosca, ecco. E di altri insetti. Un moscone, o una esatto, mosca. No, un ma anche un bel moscone. Un bel moscone. Può essere il cacchione anche una larva vermiforme dell'ape. Si riproducono con cacchioni. Esatto, si riproducono in maniera cacchiosa. Nel senso che gli esce il cacchione. Esatto, gli esce il cacchione. Nuovo. In maniera cacchiosa, sì, si potrebbe anche, dire. Esatto, ricamando un attimo sui termini. Al plurale, ecco il nome dato alle punte delle prime penne. Pensi quanti significati, certo. Andando ad approfondire, a sviscerare i termini. Sì. Allora, cacchione, allora diciamolo, è il nome al plurale, sì. Quindi i cacchioni, sì, sono i nomi dati alle punte delle prime penne dei gallinacei e dei vari uccelli. Ah, quindi mi scusi se mi metto su questo filo da equilibrista. La. Mi sta dicendo che in qualche modo il cacchione e gli uccelli hanno un punto di contatto. Ma certo. Ma non è certo quello che pensavano i maliziosetti, perché sono le punte delle piume che nascono per la prima volta. Sono appena... cacchioni. Oh, guarda, esatto, un cacchione. Guarda un cacchione, dice, non so, il merlo alla merla. Sì. Dice: guarda, mio primo cacchione. Un cacchione. Tesoro, mi è spuntato un cacchione. Quindi vedi, anche per i maliziosetti che pensavano che tra uccelli e cacchioni ci fossero sillogismi. Ecco, esatto. Chiudiamo qui? Chiudiamo qui per non creare troppe ambiguità. Lei è certo di questa cosa? Perché vedo un appunto. Ma sì, sì, c'è un richiamo qua, vedo una nota. Possiamo anche non farlo, lo evitiamo o lo facciamo? Da cacchione a cacchio il passo è breve. Vogliamo come non si approfondire dice. Anche cacchio, e allora cacchio cos'è? Spariamoci cos'è? Anche sto allora, cacchio. Allora sgombriamo il campo, guardate, vi veniamo incontro. Sappiamo benissimo che il cacchio è un eufemismo sostitutivo della parola azzo. Ecco, lo sappiamo, il pene. Perfetto. Ma dobbiamo sapere che cacchio è anche il getto non fruttifero di una pianta coltivata. E questo fa pensare. Questo fa riflettere perché il capo giardiniere, quando arriva nel giardino, dice al suo sostituto: questo cacchio non funziona. Cosa hai combinato? Da qui che cacchio hai combinato? Che dal gergo dei giardinieri si è allargato a tutto il resto. Va bene, avrei tanto voluto saperlo. Fortuna che l'ho scoperto. Grazie a Africa Antoni. La ringrazio. Mi può passare le pillole? A lei. Ne piglio una anch'io oggi. Grazie. Let all clown. California Uberalles, Dead Kennedys, 8 e 15 minuti primi. Vediamo di non essere ipocriti, non nascondiamoci dietro a un dito. Pane, burro e rock and roll ha un paio di obiettivi fondamentali da seguire. Il primo è vincere la gara degli ascolti contro tutte, e ripeto, tutte le altre emittenti radiofoniche, Radio Maria compresa. Il secondo obiettivo è quello di diventare ricchi il prima possibile. Ci aiuta la Sciura Carla! Buongiorno. Buongiorno. Tutto a posto, Sciura Carla? Sì, sì, tutto a posto. Allora, ricordiamo velocemente, la signora Carla ci aiuta con i numeri dell'otto, perché quelli che ci dava Carlo erano non fuffi. Non si vinceva. Erano fuffi. Però abbiamo delle regole da seguire, nel senso che giustamente non dobbiamo cambiarli, bisogna continuare con gli stessi. Quindi anche oggi ridai quelli di martedì. Sì. Che non sono usciti. No, è uscito a Roma il 44, ma noi non ci interessa perché non ce l'abbiamo dove... Come funziona? Dove dobbiamo deve uscire. Perché... Come funziona, Carla, sta roba? Non ho mica capita. Allora, se io li ho dati a Palermo, devono uscire a Palermo. O sulla nazionale. Sì, quindi abbiamo... O su tutte. Abbiamo sbagliato solo di città. No, allora, la nazionale è uscito 42 al posto del 44. Mannaggia lui. Ecco. A Roma è uscito solo il 44. E noi avevamo fatto Palermo. Ecco, perché quindi noi abbiamo fatto l'estratto Palermo e nazionale. E ci conviene andare avanti lì. Allora, ricordo la tripla della Carla, che sarebbe 44, 8, 53. Sì. E il Palermo, tutte nazionale. Sì. L'ho detto bene? Bene. E poi 44? Da solo si gioca. Su? Palermo e nazionale. Però Carla è appena uscito il 44. Non fa niente, non è uscito a Palermo. Ah, noi Palermo. Dritti come dei fusi, non ci si deve proprio... Non si cambia mai. Ma... No, bisogna giocarli almeno per un po', è inutile che giocarli una volta e poi... Ma per un po' cosa vuol dire? Che possiamo almeno andare... tre volte. Almeno tre, ok. Tre te lo concedo. Certo. Ok. Senti, in fuori onda mi dicevi che non è più tempo di casella. No, basta, io a casa mia è più tempo di casella, perché l'ho fatto domenica, basta. No, e non potevi tenermelo un po'. Ma no, che ti ridi, te l'avevo già detto, volevo assaggiare la casella. Lo so. Vabbè, è andata. I piatti di questo periodo quali sono? Non lo so. Non si sa, ci penseremo. No, va bene. Penseremo. Io non vorrei dirti, sai il nostro amico Carlo, il tabaccaio? Ha fatto la spia. Cosa ha fatto la spia? Sentiamo. Mi ha detto che tu l'altro giorno comunque hai vinto. Cos'è sta storia? Ho vinto i miei numeri, gli altri che ho, non gioco solo uno. Una schedina io, eh. Quanti ne giochi, Carlo? Ne gioco. Sei sicura che non ti giochi lo stipendio tu? No, lo stipendio e, no. E con che criterio a noi hai dato questi e quelli te li sei tenuti? Perché li gioco io quelli lì. Brava. Ne ho dati solo uno. Guarda. Posso darvene 10. Brava, perché sennò faccio un casino, hai ragione. Perfetto. Allora ci risentiamo martedì, a meno che domani facciamo il botto. Ok. Buona giornata, Carla, grazie. Altrettanto a voi. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we say the way, in a as all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. Yellow Submarine nella versione dei Beatles, non nella versione di pane, burro e rock and roll sottomarino giallo, che prima o poi vi riproporremo. A proposito di versioni strampalate, noi qui stiamo continuando ad allenarci. Vi avviso che domani inizieremo con i Led Zeppelin con il kazoo, una nuova versione di Led Zeppelin con il kazoo, classici dal repertorio Led Zeppelin, risuonati e riproposti interamente con il kazoo. Fossi in voi farei di tutto per non perdere il quarto blocco di domani, cari voi, com'era? Mezzoristi, esatto, voi mezzoristi di pane, burro e rock and roll. Tra l'altro vi ricordo che qualsiasi pezzo della trasmissione voi vi perdiate, volendo, lo ritrovate su radiorockfm.com o su paneburro, o scusate, su myspace.com/paneburrofm. Come al solito l'imbarazzante numero di sms mi impedisce di tentare anche solo a leggerli. Ci sono parecchi problemi che andrebbero affrontati, come quello del calendario 2008, l'anno della svolta, che avrete notato sto sviando da gran signore ormai da giorni. Il calendario c'è sempre, eh. Oggi ho anche risposto a Bonnie via mail, perché ricordo, si può tentare di richiederlo ad ariel@radiorockfm.com. Persi nelle problematiche delle poste, spedizioni e quant'altro, abbiamo evitato risposte. Oggi ho risposto a Bonnie, ma perché me ne aveva scritte 20, quindi la regola è alla ventesima la risposta è assicurata. Ma ricordo che tra pochi minuti c'è l'appuntamento con il test attitudinale, 335-100-7777, voi continuate con le vostre segnalazioni, o il nome della band del nostro Matte tredicenne, oppure lo sfondo del vostro desktop, se siete colletti bianchi, se siete impiegati. Poi nella puntata di domani inizieremo a leggere alcune delle vostre segnalazioni. Pane, burro e rock and roll prosegue con Love is the Drug, Roxy Music. In store, love is the drug, and I need the score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl, where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. The drug. Bar. Face to face, toe to toe. you can guess the rest. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. The dog got a hook in me. Oh, get that butt. Love is the dog I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the drug for me. Io li vedo, Ariel, li osservo, che i nostri osserva? Radioascoltatori. E le radioascoltatrici no. E le radioascoltatrici, ecco. Soprattutto la radioascoltatrice, un po' anche i radioascoltatori. Cosa vede? Cosa vede? Tensione. Vedo, sì, vedo che sì. Sono pronti, tesi, domande, perché domande. Si aspettano le domande che permettono loro di guadagnare. Ce l'ho, la patente da vero rocker. Esatto. Il test attitudinale, esatto. Ce l'ho. Domanda bella secca, bella veloce e anche abbastanza semplice. Iniziamo. Cosa intendiamo col termine Swinging London? Swinging London. Sì. Ipotesi A. Un noto pub londinese dove mossero i primi passi alcuni di quei gruppi che poi scriveranno pagine importanti, fondamentali nella storia del rock. Oppure, ipotesi B. Con Swinging London si intende riferirsi al movimento culturale dei giovani londinesi degli anni 60. Oppure, infine, ipotesi C. Con Swinging London si intende il nome delle audiocassette prodotte da George Harrison con le quali si insegnava ai giovani a ballare lo swing in 10 semplici mosse. Se lo sapete, ditelo subito. Se non lo sapete, riflettete e non abbandonate l'attenzione. La soluzione? Come al solito ve la diamo tra poco, la risposta esatta a poco dopo. Adesso Gigi, per farsi perdonare, vi offro un bel caffè. Viva il caffè! È sicuro che è quello buono? Più lo mandi giù e più ti tira su.